La Sixth Sense Life Technology è la proposta che Whirlpool fa per indirizzare tutti i nuovi bisogni legati al tema sia della connettività con dispositivi mobili come smartphone o tablet, ma soprattutto anche per tutto il tema della gestione dell'energia, che sta diventando sempre più importante per il consumatore, soprattutto legata al tema delle reti intelligenti, cioè le reti elettriche intelligenti, che sono quelle che in un prossimo futuro permetteranno di avere più fasce orarie, di avere costi differenziati dell'energia durante il giorno e quindi anche una soluzione semplice e pratica per il consumatore per poter beneficiare dei prezzi migliori durante il giorno e quindi poter far andare i suoi prodotti quando più gli conviene, piuttosto che farli andare solamente negli orari fissi, che sono oggi la bioraria, ad esempio, ti costringe a farli andare la sera se vuoi risparmiare qualche cosa. E in un prossimo futuro, invece, con una maggiore flessibilità data dalla automazione che questi prodotti possono offrire, si potrà fare in modo di avere, ad esempio, la lavastoviglie che si prepara prima di andare al lavoro, si chiede di avere tutto pronto per la sera quando uno torna dal lavoro, poi il sistema farà lui partire il prodotto nel momento in cui c'è la tariffa migliore, quindi minimizzare il costo per ottenere lo stesso risultato. Quindi lavastoviglie e parenti vari. Quindi quali lavastoviglie, sono? Lavatrice, forno, ad esempio, sono i prodotti su cui è più intuitivo immaginare come si può gestire il discorso dei consumi. La lavatrice, ad esempio, come per la lavastoviglie, può essere programmata in modo da averla pronta per una certa ora. Si possono avere suggerimenti e consigli anche su come ridurre il consumo per il ciclo. Se ad esempio io suggerisco di usare il 60 gradi, la macchina mi può dire: per questo tipo di tessuto puoi utilizzare anche una temperatura più bassa e quindi risparmiare tot soldi, e se magari posticipi di un'ora la partenza potresti avere un ulteriore risparmio perché passa la tariffa più bassa. Quindi tutto un modo molto più semplice di interagire col prodotto tramite un'interfaccia che l'utente ha già, che è il suo smartphone, che è il suo tablet o con un altro dispositivo mobile, sul quale può avere tutta una serie di informazioni molto dettagliate, può avere dei video, può avere qualunque aggiunta rispetto al normale pannello di controllo per semplificare l'interazione. Quindi io la sistemo, la programmo, come dire, e poi dopo posso interagire. La chiudo e la metto pronta a ricevere un mio comando da ovunque e in qualunque momento. E posso interagire anche dall'ufficio. Anche dall'ufficio, mentre sto tornando a casa voglio verificare se è tutto pronto, oppure voglio assicurarmi di che la lavastoviglie abbia finito, che stia facendo tutto quello che deve fare. La tengo sotto controllo. La tengo sotto controllo, ho la gestione completa in qualunque momento di tutto quello che c'è in casa, quindi una libertà in più per le persone per avere tutto sotto controllo. E sono già in commercio questi? No, saranno in commercio in un prossimo futuro. La Whirlpool è molto attenta a presentare in anticipo le soluzioni innovative, e questo lo vedremo nel prossimo, alla prossima Eurocucina avremo questi prodotti disponibili. La prossima Eurocucina, quindi tra due anni? Tra due anni, esatto. Siete già riusciti a quantificare il risparmio energetico? Ci sono stati diversi studi, alcuni studi che sono stati sponsorizzati dalla comunità europea dimostrano che già semplicemente dando all'utente degli strumenti per gestire meglio il proprio consumo si risparmia fino al 15%. Quindi già questo è un risparmio significativo. In più, addizionali risparmi sulla bolletta dipenderanno anche da come saranno le tariffe. Quindi questo dipenderà molto anche da come evolverà il mercato dell'energia in Italia e in Europa nel prossimo futuro, e sappiamo che c'è molto fermento in questo momento, molte discussioni a livello europeo, in generale l'Europa vorrebbe che ci fosse molta più dinamicità nel mercato dell'energia proprio per favorire dei comportamenti virtuosi e per favorire l'uso delle rinnovabili, che come sappiamo sono discontinue, di giorno il solare, le pale dei mulini eolici, dei sistemi eolici funzionano solo quando c'è vento, quindi devo essere in grado di gestire queste fonti rinnovabili estremamente importanti per l'ambiente, che però non sono prevedibili.